Terzo anello, ad alta voce, Madame Bovary di Gustave Flaubert. Con il marito, Emma era più gentile del solito. Gli faceva delle creme al pistacchio, dopo cena gli suonava dei valzer. Lui si considerava dunque il più fortunato dei mortali. Emma viveva senza la minima inquietudine a quel proposito, ma una sera, d'improvviso, lo sentì dire: «È la signorina Lempereur che ti dà lezione, vero?» «Sì». «Come mai? L'ho vista poco fa dalla signora Liégeard, le ho parlato di te, non ti conosce». Fu come un colpo di fulmine. Eppure lei trovò la forza di replicare con naturalezza: «Ah, di sicuro avrà dimenticato il mio nome». «Oh, forse a Rouen c'è più di una signorina Lempereur, maestra di piano», insisté il medico. «È possibile». E aggiunse con maggior vivacità: «A ogni modo ho le sue ricevute. Ecco, guarda». Andò al secretaire, frugò in tutti i cassetti, rovistò tra le carte, fece insomma una tal confusione che alla fine Charles dovette pregarla di non darsi troppa pena per quelle miserabili ricevute. «Oh, le troverò», promise lei. Infatti, il venerdì seguente, Charles, nell'infilarsi le scarpe nel buio ripostiglio dei suoi indumenti, sentì un foglio di carta tra cuoio e calza, lo tirò fuori e lesse: «Ricevuta per 3 mesi di lezione, oltre a prestazioni varie, la somma di 65 franchi. Félicie Lempereur, professoressa di musica». «Ma come diavolo è finita nelle mie scarpe?» «Oh, senza dubbio sarà caduta dalla vecchia scatola dei conti che sta lì in bilico», disse lei. Da quel momento in poi, la sua esistenza fu un unico ammasso di menzogne. Vi avvolgeva l'amore come in veli per nasconderlo. Era un bisogno, una mania, un piacere al punto che, se diceva d'esser passata ieri per il lato destro d'una via, si poteva star certi che aveva preso il sinistro. Una mattina, in cui, secondo le sue abitudini, era partita in vesti molto leggere, venne giù la neve d'improvviso. Charles stava guardando il maltempo alla finestra. Vide Don Bournisien nel calesse del signor Tuvache che lo portava a Rouen. Allora scese ad affidare al prete un pesante scialle da consegnare alla signora appena fosse arrivato al Croce Rossa. Appena arrivò all'albergo, Don Bournisien chiese dunque della moglie del medico di Yonville. Si sentì rispondere dall'albergatrice che la signora Bovary si faceva vedere molto di rado da quelle parti. Così, la sera, ritrovata la signora Bovary sulla rondine, il curato le raccontò il proprio imbarazzo, senza comunque dimostrare di darvi troppa importanza. Infatti aveva da intonare l'elogio di un predicatore che in quei giorni faceva mirabilia nella cattedrale e che tutte le donne accorrevano ad ascoltare. Quello, è vero, non aveva chiesto spiegazioni, ma cosa voleva dire? Altri avrebbero potuto in seguito comportarsi meno discretamente. Così, da allora, lei giudicò opportuno scendere ogni volta al Croce Rossa, in modo che i bravi abitanti di Yonville, vedendola sulle scale, non nutrissero sospetti. Tuttavia, un giorno Lheureux la incontrò proprio mentre usciva dall'albergo Boulogne sotto braccio a Léon. Lei ebbe una gran paura, immaginando che quello avrebbe chiacchierato. Lheureux non era così bestia. Ma 3 giorni dopo, lei se lo vide arrivare in camera. Il merciaio chiuse la porta e disse: «Avrei bisogno di denaro». Lei dichiarò di non potergliene dare. Lheureux si profuse in lamenti, le ricordò tutti i favori che le aveva reso. Lei abbassò il capo, quello continuò: «Se non avete liquidi, avete sempre qualcosa al sole». E le parlò di una catapecchia sita a Barneville, presso Aumale, che non rendeva granché. Faceva parte un tempo di una piccola fattoria venduta dal vecchio Bovary. Lheureux era al corrente di tutto, della quantità di ettari come dei nomi dei vicini. «Al vostro posto me ne libererei e mi resterebbe anche del denaro». Lei protestò la difficoltà di trovare un compratore. Lui le dette la speranza di potergliene trovare uno, ma lei domandò come fare per poter vendere. «Non avete la procura?» replicò il merciaio. quella parola le arrivò come una boccata d'aria fresca. «Lasciatemi il conto», disse Emma. «Oh, non ne vale la pena», ribatté il re. Tornò la settimana successiva e si vantò di aver finito per scoprire, dopo lunghe ricerche, un certo Langlois che offriva 4.000 franchi. Emma si rallegrò alla notizia. «Francamente, è un bel pagare», commentò il merciaio. Emma incassò metà della somma immediatamente e quando volle saldare il conto si sentì dire: «Parola d'onore, mi rincresce togliervi d'un sol colpo una somma tanto consistente». Allora lei guardò le banconote, pensando al numero illimitato di convegni rappresentato da quei 2.000 franchi. «Come? Come?» balbettò. «Oh, si può mettere tutto quel che si vuole sulle fatture. Non so forse come vanno le faccende nelle famiglie», riprese lui ridendo bonariamente. E la fissava, mentre teneva in mano due lunghe strisce di carta che faceva scivolare tra le unghie. Alla fine aprì il portafogli e sciorinò sulla tavola 4 cambiali da 1.000 franchi l'una. «Firmatemi queste e tenetevi tutto!» Lei protestò scandalizzata. «Ma se vi do l'eccedenza, non è per farvi un piacere?» rispose sfrontatamente le re. E, presa una penna, scrisse in calce al conto: «Ricevuta dalla signora Bovary la somma di 4.000 franchi». «Chi vi potrà dar fastidio, dato che entro 6 mesi incasserete il resto della vendita della vostra bicocca e l'ultima cambiale scadrà dopo il pagamento?» Emma si smarriva un poco nei propri calcoli. Gli orecchi le tintinnavano come se monete d'oro, sfuggendo dai loro sacchi, le cadessero intorno sul pavimento. Poi Lheureux spiegò che aveva un caro amico, Vinsart, banchiere a Rouen, che avrebbe scontato le 4 cambiali e lui stesso le avrebbe portato l'eccedenza sul debito reale. Ma invece di 2.000 franchi ne portò solo 1.800, poiché l'amico Vinsart, come era giusto, disse, ne aveva prelevati 200 per spese di commissione e sconto. Poi, affettando indifferenza, chiese una ricevuta. «Oh, voi capite, in commercio a volte...» «E con la data, se non vi dispiace, con la data!» Davanti a Emma si spalancava un orizzonte di capricci realizzabili. Ebbe a ogni modo la prudenza di mettere da parte 1.000 scudi, con cui pagò alla scadenza le prime 3 cambiali. Ma la quarta, per caso, arrivò un giovedì. E Charles, turbato, aspettò il ritorno della moglie per avere spiegazioni. Se non l'aveva informato di quella scadenza, era stato per evitargli preoccupazioni domestiche. Lei gli sedette sui ginocchi, lo carezzò, tubò, enumerò a lungo tutte le cose indispensabili che aveva preso a credito. «Insomma, converrai che, vista la quantità, non è poi troppo, caro». Charles, a corto di idee, ricorse all'eterno Lheureux, che giurò di mettere a posto le cose. Sarebbe bastato che il signore gli firmasse 2 cambiali, una delle quali di 700 franchi, pagabili a 3 mesi. E per essere in grado di farlo, lui scrisse una gran lettera patetica alla madre. Invece di mandare una risposta, la vecchia Bovary arrivò in persona. Emma volle sapere se il marito avesse ottenuto qualcosa e si sentì dire «Sì, però chiede di vedere la fattura». Il giorno dopo, all'alba, Emma corse da Lheureux pregandolo di preparare un'altra nota che non superasse i 1.000 franchi. Mostrando quella da 4.000 avrebbe dovuto infatti rivelare di averne già pagato i 2/3 e confessare quindi la vendita dell'immobile. Affare condotto molto bene dal merciaio e destinato a venir conosciuto solo molto più tardi. Sebbene ogni articolo figurasse a un prezzo bassissimo, la vecchia Bovary trovò la spesa esagerata. «Oh, ma guardate quanti fronzoli, quante cianfrusaglie! Ma come? Seta per fodere a 2 franchi il metro, quando si trova della mussola da 10 soldi e anche da 8, che serve benissimo lo stesso!» Sdraiata sul divano, Emma rispondeva con la maggior calma possibile. L'altra continuava a farle la predica, diceva che sarebbero finiti all'ospizio. Del resto la colpa era di Bovary. Per fortuna che ormai aveva promesso di annullare quella procura. «Come?» «Oh, me l'ha giurato!» rincarò la brava donna. Emma aprì la finestra, chiamò Charles e il poveraccio fu costretto a confessare la promessa estortagli dalla madre. Emma scomparve. Tornò subito, tendendo solennemente un gran foglio di carta. «Oh, vi ringrazio!» disse la suocera e buttò la procura nel fuoco. Emma cominciò a ridere, un riso stridulo, irregolare, continuo, un attacco di nervi. «Oh, mio Dio! E anche tu hai torto, mamma! Vieni a farle delle scenate!» gridò Charles. La madre si strinse nelle spalle, disse che era tutta una posa. Ma Charles le si ribellò per la prima volta. Prese la difesa della moglie. La difese tanto che la vecchia Bovary decise di andarsene. Non per questo Charles restò meno avvilito nei confronti della moglie. Emma, infatti, non gli nascondeva di nutrir rancore per la sua mancanza di fiducia. Dovette pregarla e ripregarla prima che lei acconsentisse a riprendersi la procura e lui, anzi, l'accompagnò dal signor Guillaumin per fargliene fare una seconda del tutto simile alla prima. Quante pazzie il giovedì seguente, all'albergo, nella loro camera, con Léon. Lei rise, pianse, cantò, ballò, si fece portar su dei sorbetti, volle fumar delle sigarette. Lui la trovò bizzarra, ma adorabile, magnifica. Non sapeva quale reazione di tutto il suo essere la spingesse a precipitarsi ancor più nei piaceri della vita. Diventava irritabile, golosa e sensuale. Andava a spasso con lui a testa alta, senza la minima paura, lo proclamava, di compromettersi. A volte, è vero, Emma trasaliva all'improvviso pensiero di poter incontrare Rodolphe. Temeva di non essersi ancora completamente liberata dalla soggezione a quell'altro, sebbene la loro separazione fosse irreparabile. Una sera non rientrò neppure a Yonville. Charles perse la testa e la piccola Berthe, non volendo andare a letto senza la mammina, singhiozzava da spezzarsi il petto. Justin vagava a caso sulla strada maestra. Il signor Omé aveva lasciato la farmacia. Alla fine, alle 11, Charles non resiste più, attaccò la carrozza, vi saltò dentro, frustò la bestia. Arrivò al Croce Rossa verso le 2 di mattina. Nessuno. Pensò che forse il sostituto notaio poteva averla vista, ma dove abitava? Charles però riuscì a ricordarsi l'indirizzo del principale di Léon. Vi si precipitò. Cominciava a spuntare il giorno. Decifrò l'insegna notarile al di sopra di una porta, bussò. Qualcuno, senza aprirgli, gli gridò l'informazione richiesta e aggiunse anche una quantità di insulti contro coloro che vanno in giro a disturbare la gente di notte. La casa ove abitava Léon non aveva campanello, né battente, né portiere. Charles picchiò gran pugni contro le imposte. Sopraggiungeva una guardia. Allora lui ebbe paura e se ne andò. «Oh, sto impazzendo!» «Oh, certamente! L'avranno trattenuta a cena ai Lormeaux!» si diceva. La famiglia Lormeaux non abitava più a Rouen. «Sarà restata a curare la signora Dubreuil, eh? Oh, la signora Dubreuil è morta 10 mesi fa! Dove sarà mai allora?» Gli venne un'idea. In un caffè chiese l'annuario e cercò in fretta e furia l'indirizzo della signorina L'Empereur. Abitava in Rue de la Renelle de Maroquinier al numero 74. Mentre entrava in quella strada, vide Emma apparire dall'altra parte. Più che abbracciarla, le si precipitò addosso. Gridava: «Perché sei restata qui ieri sera?» «Mi son sentita male. E di cosa? Dove? Come?» Lei si passò una mano sulla fronte prima di rispondere. «Dalla signorina L'Empereur. Oh, ne ero sicuro. Ci stavo proprio andando. Oh, non ne val più la pena. È uscita appena adesso. Ma in futuro cerca di startene più tranquillo. Non mi sento libera, capisci? Se so che il minimo ritardo può sconvolgerti in un modo simile. Era una specie di permesso che concedeva a se stessa per non preoccuparsi troppo nelle sue scappate. E ne approfittò a suo piacere, abbondantemente. Quando la prendeva la voglia di vedere Léon, partiva con un qualsiasi pretesto e, dato che lui non l'aspettava quel giorno, lo andava a cercare allo studio. Fu una gran felicità le prime volte, ma presto lui non le nascose più la verità. Il principale si lamentava, e non poco, di quelle visite che mettevano lo scompiglio nel lavoro. «Ma su, vieni via», diceva lei, e lui se la svignava. Volle che si vestisse tutto di nero e si lasciasse spuntare un pizzetto al mento per somigliare ai ritratti di Luigi XIII. Volle conoscere la sua casa, la trovò mediocre. Non fece caso al suo rossore, invece gli consigliò di acquistare delle tendine uguali alle sue. E siccome lui parlava della spesa eccessiva, si mise a ridere. «Come ci tieni ai tuoi soldini!» Ogni volta Léon le doveva raccontare tutto quello che aveva fatto dall'ultimo incontro in poi, e lei desiderava dei versi scritti apposta per lei, una poesia d'amore in onor di lei. Ma lui non riuscì mai a trovare la rima per il secondo verso, finì per copiare un sonetto da un keepsake. E lo fece meno per vanità che per compiacerla. Non si permetteva di discutere le sue idee, accettava tutti i suoi gusti. La donna innamorata pareva lui piuttosto che lei. Lei sapeva dire certe parole tenere e interromperle con baci che gli rapivano l'anima. Dove mai aveva appreso quella corruzione che pareva quasi immateriale, tanto era profonda, segreta? Nei viaggi che faceva per rincontrarla, Léon aveva spesso pranzato a casa del farmacista e s'era dunque creduto in dovere, per cortesia, di invitarlo a sua volta. «Volentieri», aveva risposto Omé. «Del resto ho proprio bisogno di ritemprarmi un poco, qui ammuffisco. Andremo a teatro e in trattoria faremo pazzie». Così, un giovedì, Emma ebbe la sorpresa di incontrare nella cucina del Leondoro Omé in tenuta di viaggio, ovvero avvolto in un vecchio mantello che non gli aveva mai visto prima, con una valigia in una mano e nell'altra lo scaldino della farmacia. Non aveva confidato a nessuno i suoi piani, nel timore di suscitare qualche preoccupazione nel pubblico per la sua assenza. L'idea di rivedere i luoghi ove aveva trascorso la giovinezza lo esaltava di sicuro, e infatti, durante l'intero percorso, non smise un attimo di chiacchierare. Poi, appena arrivato, saltò in fretta e furia dalla carrozza per porsi alla ricerca di Leon. E l'aiuto notaio ebbe un bel resistere. Omè lo trascinò verso il Gran Caffè di Normandia, in cui fece un ingresso solenne, senza togliersi il cappello, poiché riteneva un atto troppo provinciale lo scoprirsi in un luogo pubblico. Emma aspettò Leon 3/4 d'ora. Alla fine corse al suo studio e, smarrita in ogni specie di sospetti, accusando l'amato di indifferenza e rimproverando se stessa di eccessiva debolezza, passò il pomeriggio con la fronte incollata ai vetri. Alle 2 quelli erano ancora a tavola. Il salone si stava vuotando. «Ce ne andiamo!» propose alla fine Leon, che aveva ormai perso la pazienza. «Yes!» Ma prima di andarsene, Omè volle vedere il padrone della trattoria e rivolgergli le sue congratulazioni. Allora il giovane uomo, per restar solo, dichiarò che aveva da fare. «Oh, sarò la vostra scorta!» disse Omè. Arrivarono davanti all'albergo Boulogne. Leon piantò in asso il farmacista, fece le scale di corsa, trovò l'amante in grande agitazione. Nel sentirlo fare il nome del farmacista, lei si arrabbiò. Tuttavia lui ne aveva di ragioni da accampare. Non era mica colpa sua, forse non lo conosceva anche lei, Omè? Poteva credere che lui preferisse la compagnia di Omè alla sua? Lei era dritta, in piedi. I suoi grandi occhi ardenti lo fissavano in modo grave, quasi terribile. Poi le lacrime gliele offuscarono, le palpebre rosa calarono, pesanti. Lei abbandonò le mani a Leon. Se le stava portando alla bocca quando sopravvenne un cameriere, avvertendo il signore che lo cercavano. «Tornerai?» disse lei. «Sì, ma quando?» «Subito». Elsa Galbato ha letto Madame Bovary di Gustave Flaubert, riduzione di Chiara Nicoletti, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it